Graziano, attento Graziano, ci ascolti l'uomo più forte. Attenzione, Marino. Tore, attento Tore, vamos a ver. Buongiorno. Peppa, ci sei? Tore, attento Tore, ci sei? Lo fanno solo le pecore al burro. Bacchisio. Gianmarie, no, Bacchisio, stavo chiamando per se mi rispondi un attimo. Ho ascoltato, io mi chiedo, aspetta che metto il volume, che ero a volume zero e non ti ho sentito. Cosetto, un attimino Gianmarie. Bacchi, ma tu sei a me? No, a Bacchisio sto. Bacchisio c'è, fallo fino avanti, Bacchi. Ciao, dai, ci mi ascolti, buonasera anche a Gianmarie, mi sembra che sia entrato Gianmarie. Avanti Tore. Sì, già ti ascolto. Asco, ma tu attacco di antenna Sigma c'hai? Hai detto se c'ho? Attacco dell'antenna Sigma, presente ce l'hai? Eia, la Sigma per la macchina. Sì, ma ce l'hai tu? Perché ce n'ho una io di quelle di antenna Sigma. E io con l'antenna cassino di Sigma l'ho data a Mario. Capito, l'ho data a Mario, dunque non ce l'ho più, quella è la Sigma, la 1000 c'hai tu, o la 800? No, la 1000, quella 1000 c'ho. E cosa ti serve a te che la 1000? Quella che va attaccata alla macchina. Non ho capito, ripeti, allontanati il micro dalla bocca oppure cerca qualcosa a chiarire un po', sei un po' malmesso. Guarda a vedere adesso, bene, mi capisci adesso. Aspetta, facendo il portatile forse ti ascolto più bene. Gianmarie! Dimmi tu! Che ce l'hai tu un attacco, no? Di antenna Sigma, quella la 1000. Boh, mi sembra che ce l'abbia, non mi ricordo. Ne ho un paio ne ho in magazzino, non so se della Sigma. Sì, l'attacco solo mi serve, ed è quello che va attaccato alla macchina. Basta guardarla, guaretto, bisogna vederla. Quando ti capita, passa e la guardi a vedere un po'. Sì, ma noi che c'hai tutta l'antenna completa non mi interessa, mi interessa l'attacco di sotto, se ce n'hai uno in più. Ma dovrei averla tu. Sono da tanto tempo che non sono in magazzino senz'altro, però già la cerco domani mattina, vediamo un po'. Basta, comunque la vedi e così che vedi un po' se va bene, se non va bene. Sì, adesso vediamo, da. Ma chi? Basta, vi avemmo. Tu fatta virai. Ah, cosa sei diventato il padrone? Per la me. Chi è questo? Tu. Sta rubadrono, va rubadrono. Ciao Maria, te ce l'ho già detto chi su. Ma io non lo sento, Non lo sento per niente, chi è? Di passare da Amplifon. Hai inteso cosa ti ha detto? ma non lo sento, non lo sento, deve essere lontano questo qua. In omaggio gli stanno dando, regalando gli stanno le trombette. Buonasera comunque, ciao Tore, ciao Bacchisio, ciao Gianmaria, e chi è in ascolto? Bene, bene, dite, fate. E te, Gianmarie, che muoio sta girami? Andate, bebe. Signor Bacchisio. Ehi, buonasera, Graziano anche. Non ho salutato poco fa perché non c'era. Gianmarie ha salutato poco fa. E dunque, cosa c'è Tore? Avanti. Quello che ti ho chiesto, ma hai capito cosa ti ho detto? Che mi serviva? Ho capito Tore, ripeti quello che hai detto poco fa e ti ascolto. Allora, io ho l'antenna 1000, della Sigma. E ho preso, oh, mi manca un pezzo di sotto. Ti manca il miglio. Ti manca il miglio, ti manca. C'hai solo lo stilo tu in pratica. La bobina non ce l'hai. No, oh, è completa. Manca il pezzo che va attaccata alla macchina, manca. Hai capito? Quella precisa ce l'ho anche io. La mia non ce l'hai tu. Ma è della 27, è completa però. È della 27 quella. Ascoltami. Domani, ci vediamo domani, ti faccio vedere io senza rovinare l'antenna. Sì, ma non c'ho cosa, non c'ho, come si chiama, lo stilo piccolo, non ce l'ho, non sei riuscito a acciapparlo, Guido. Quella della 27 ce l'hai completa. Quella della 27 sì, ma non la voglio tagliare lo stilo, non lo voglio rompere. Non devi rompere niente, non devi rompere niente. Lo stilo si svita. Cosa c'è? La brugolina per togliere lo stilo? Sì, quello sì. Le brugoline già ce li ho. Si può smontare. E per, come quello che c'è tu. E allora è fatta, non c'è bisogno di tagliare nulla. Solo cambiare e basta. Hai visto? Ti ho fatto vedere a mezzogiorno, non te l'ho fatto vedere. Togli una e metti l'altra. Sì, ma non naggio, manco un pezzo non naggio. Chiedo che faccio, è troppo grosso. E non v'entra. Te lo do io. Io un pezzo di vivo all'assorto si trova. Ah, e Luca, che voce sessuale che c'hai stasera. Andava Luca. Dove sei? Sessuale? Buonasera, buonasera. Tanto adesso la signora l'hai portata a casa con la tua sola figlia. Avvicinati qua e la vediamo insieme. E dove sei? Al magazzino. Ma a casa solo. Sono a casa adesso. E mi vai rimontare, tutto quanto mi vai rimontare. Ah, vabbè, hai zitta, va. Ah, se ce l'ha Luca il pezzo. Luca, cosa c'hai tu? Ma ti servate lo stilo? Ho un pezzo da 20 centimetri, me ne servi, non di più. Ma tanto se domani il Bacchiso si fa trovare in garage, devo portare delle antenne, che io non ne faccio niente, devo dare a Marino, che se ne fa l'antennino lui. Sì, fa così allora, ma a me me ne serve un pezzo da 20 centimetri, non di più, vero Bacchi? Sì, ma da 20 centimetri ce ne ho anch'io qua, capito tu? Avvicinati adesso qua, porta la paladana dell'antenna e faccio vedere la tua. Ehi, allora, faccio così. Non me la porto tutta intera, ne tolgo lo stilo e faccio così, là. Sto venendo allora. Grazie, in avanti, scusate la ping pong con cuore. Ehi, io ne avevo dato qualcuna di antenna a Luca, ma così corti già si procura. Se poi ce l'ha Battisio a Buglia. Eia! E beh, Luca! E beh, grazie! Pure tu ci sei, mi sembra che hai dormito! No, stavo guardando la TV, stavo guardando quel programma Alaska! Ma su di Max? Mi pare! Eia! E stamattina ho portato a mamma a fare una visita lì al Conti. La... ecco, Doppler... quello che ti controlla le arterie. L'ho fatto anche io, lì c'è al Conti, alle gambe e al collo me l'ha fatto. Sì, c'è al collo mamma però. E ha detto che ha delle placche. No, a me mi ha detto che va bene. Il malanno c'è però già va bene. Poche parole ma ti sta andando. Che l'ha fatto quel solo? La penultima volta io la faccio, me la fa fare quasi ogni anno quella visita lì, per controllarmi e le artiglie, capi? Oh, ultimamente me l'ha fatta uno magro, la penultima volta uno grasso, in nome di allora andazzini, so che tra deciso. E comunque diabetici sono soggetto a queste cose, capito, meglio farle sempre le visite, così ha detto, quello lo so, boh. E io quasi tutti gli anni me la fa fare al collo, alle gambe, beh, per la circolazione, no? A me ti ricordi l'anno scorso, mi si erano fiati gli anchi, i ripiti, chi mi aveva detto che va via la costa, anche all'ospedale ce li avevo avuti, quando mi hanno avevano ricoperato. E la poi mi ha detto che era dalla circolazione, ma questo lo sapeva, insomma mi hanno caricato di altri medicini, capito? Intanto io non faccio di male a Eddie, faccio di male a te. Infatti quando mi ha detto, ma la pastiglia per la cosa la sta prendendo? No, no, non la sto prendendo più. Perché mica ho le gambe gonfie, se non ce le ho gonfie cosa la prendo a fare? Ma lei la doveva prendere, e allora, figlia di Eddie. La giudice, vabbè, allora quando torno a casa da oggi me le riprendo. E la morte senza prenderle, un paio di giorni, e lei sei un paio di mesi, senza migliaia di mesi. Scusa, se non erano voi, cosa me la migliava a fare? Sì, ha caricato di medicine, tanto dice, un immacco, meno lavoro per noi. E allora, ma di essere di tutti 30 la credenza, io. Ha detto, dimmi su piedi, non mi ripiglia, se no non mi ripiglia. Sono un c'è aghi, mamma, Gesù Maria, sono belli spacchi di aghi. E beh, quelli ce li ho anche io, ma io già li uso, mi boto quattro volte le buca nelle dita. Ah, poi quelli sono della macchinetta, poi quattro insulina radi, a voglia ne consumo aghi, fare così, ma gli azzecci, neanche le strisce. No, ma ne faccio su una insulina, una di... e di poi chi piglia ricorsi di altri 300 aghi, perché mamma faccio prima 4 insuline, e poi bisogna fargli la modifica, bisogna andare all'ospedale, o al medico, di solo un pacco, basta. Cosa ti faccio? Ti immagini una roba di dottore di pacchi, da 100, sono di più puro. Quando vai a fare il foglio, perché vuole fatto ogni anno il piano... regolatore degli aghi, quel foglio che c'è, quando vai in farmacia, prima vai dal medico, ti fa le impegnative e poi vai in farmacia con quel foglio, che ti segnano mese per mese quando si spezzano gli aghi, ogni due mesi. Quando vai a fare quel foglio nuovo, io l'ho rifatto nuovo, ogni anno si fa. Glielo dici al medico e te lo fa in base a quella che prendi, che consuma. Ma infatti al limite di quello non ce la facciamo dare per il momento, tanto un pacco e basta, e fate un conto, fa un'insulina al giorno, un pacco di dura 3 mesi, fai 30 aghi, fai che ne consuma 5 più, perché molte volte o lo provo non esce l'insulina, o si piega o turato, boh. E tu il mese che ti tocca che prescrivere, se ne hai molti non ci vai, a parte fare gli impegnati, beh, non ritiri, non succede nulla. Poi dopo altri 2 mesi che ti spetta di nuovo, quelli vai te li ritiri. La farmacista se ti dice come mai qui ha saltato un mese, non sono venuto perché ne aveva troppi e cosa me ne facevo, adesso mi accorrono e me li deve dare, ecco, non succede nulla. Sì, allora, quando ti danno la terapia, io non c'è scritto niente, è solo il foglio per ritirarle, quello è medico, vabbè, comunque glielo dico al medico, di metterne un pacco in meno. Lo devi dire al diabetologo, il diabetologo ti fa il foglio nuovo lì al Palazzo Rosa, dove entri lì, tua madre al Palazzo Rosa, lì ti fanno il foglio nuovo, capito? Non so, grazie, guarda che l'ho rinnovato già due volte, non lo so dove. E lì, tu se entri lì, ti fa la prescrizione. Se tu ridi mia madre fa solo un'insulina. E qua in farmacia me ne danno di sopra più. Dio, cosa me ne fa? E allora ti rifanno il foglio per un'insulina solo, capito? Sì, ha capito Dio. Ma se no, se il foglio ce l'hai già per tutto l'anno. Tu va quando ti tocca, non va a ritirarli e vai alla prossima. E ogni due mesi, io li ho ritirati questo mese. Adesso l'altro mese non li devo ritirare, li devo ritirare ancora più in avanti. Siamo gennaio, febbraio, marzo, aprile mi spetta. Ho capito, lo so, non è quello. Che mamma fa solo un'insulina, però ultimamente la glicemia c'era un po' altina, 200, 230. La mattina c'era giusta, però gli ho detto di lasciare una regolata, i dozzi, ogni tanto si mangiava una pasta, una crema, non li mangiava. No, mangia, poi è ingrassato di nuovo, non fa movimenti, è un casino, grazie. No, io stamattina ce l'avevo, 161. A mezzodì ce l'avevo prima del pranzo, alla una, 121 ce l'avevo. Invece ieri notte, non ho mangiato neanche il pane, solo lo spezzatino con le patate, così me l'ho mangiato. Via via, 221, ha detto Le patate hanno carboidrati, capito? Lo so, ma è aggiunta al limite, non ti mani, non li mani, me lo mani così. Cosa può esserci stata? Una patata quanto il pugno, un paio di pezzigarri e buh. E poi non ho mangiato altro. E tanto, Barazzucchi, prima di coricarmi che me l'ho misurata per farmi l'insulina della notte, via via così, 221, che ha detto, è un casino, volevo testare una regolata, perché non bisogna abusarne, poi vedi cosa succede. Gai su conto. Ma la notte non più mi butti sempre, la notte è sempre, per lo più quasi sempre mi fredda. Vabbè, l'altra notte no, però mi ho fatto solo il tè e ce l'avevo 160 qualche cosa. Ma non posso zinare sempre il denno, Lo so, grazie. Purtroppo o mangi il pane o mangi la pasta o viceversa. Le patate lo stesso sono maledette, diabetici. Ma c'è una bella, perfetta qua, perfetta. Poi con la pastiglietta stava andando benissimo. Andiamo alle cose giuste, solo che ultimamente si sta alzando anche la notte. Ti ho detto, non è che io ti faccio l'insulina della notte e tu ti alzi verso le due e c'ho fame. Non mangi. Facciamo di tutti, faccio un fame. Vabbè, se voglio un posto pure fame, mangio, non mi interessa. Grazie a Dio non ho problemi. Però molte volte magari me lo faccio di fame, mi trovo. E lei deve fare la stessa cosa, dormire, non mangiare la notte. No, io la notte non mangio. Dopo che se ceno non mangio, non mi inizio come è abituato a mangiare 30 minuti. Proprio per quello mai, entrare in bagno sì, qualche volta mi ho bevuto l'acqua, però il più d'estate, in inverno manco ne do cueva. No, a mangiare non me ne invece frutti, non saranno. Ma mi sono bombardenimi, grazie. Ah? Stanno bombardando qua, bombette stanno buttando. Ma da questa parte non si sente, sono in cucina. E tu non li senti perché sono da questa parte? Ehi, là che li giugano, saranno i pizzini. I pizzini deficienti, so. Ehi, ma è una maniera o l'altra. Si danno di consumare, chissà, nella neaudi, se è tardi. Chi se la libera consumata? Magari mi è rimasta, gliene sono rimasto, la neaudi, e se sono giù che ne cucci. Ma io non ce l'avevo mai di scina, grazie a lui, alle scosse, alla schiena. E poi, vabbè, stamattina mi sono preso un occhi antidolorifico. E poi mi sono messo un po' di quella pomata, l'ha comprata a mamma, per lei. Io ce l'avevo qua, me la sono dimenticata qua. E un po' me l'ha calmato. Prima ci faceva male la parte sinistra, adesso mi fa male la parte destra. Beh. Avrei preso freddo. E io per lo più mi mangiano, mi ripeto a mal di schiena. E per dire, il mio letto è ortopedico, perché lo sollevo la testa e i piedi. Per dormirmi, per la circolazione del sangue. Poi c'ho quel capo di materasso che è lattice, perché ci vuole quello. E poi a Mardicina me ne pesano matti. Vabbè, perché io ho anche 5 ernie del disco, ed è quello. Dunque non vedrà nulla dal materasso, la rete. E se vuoi ti dica, io vado di qua in latte, c'è andava a Roma a te, sì. Ti riporto un incappo e una pigiama. Sono un'esigna, così mi passa la maticina. Oh, avrei preso freddo tu, oh, sicuramente. A me mi viene a chi va a giulirne nel disco. Vedo se ti dici, la gruppa adressata a chi so qui a gombo. Ah, non è Maria Pietro un po' su due, va, grazie a no. Vuoi compiere a vedere le signorine nude? Ehi, la caruba, che già è piccina ancora. Grazie, mi aspetti, da una ventina di minuti. A dopo. Ehi, già sto qua, c'ho internet e qua, non c'è problema. Vai, vai. Sore, a chi? Vabbè, grazie. Buffo, che fai accendere c'è? Oh! Dormito, sì. No, oh, sto guardando su internet. E me? Caduto, sì. Oh, come no? E beh, e cosa hai combinato oggi? Nulla. No, oggi stavo controllando un coso, un monitor, una TV, dai. E niente, ho saldato il connettore dell'antenna e adesso non accende. C'è qualche problema, qualche corto sulla scheda. Adesso appena arrivo a casa lo rismonto di nuovo. La segna travaggio, sarà falso contatto. Senti questo. I nuovi robot maschili bionici possono sostituire gli uomini come compagni a letto. È vero. Sì, ma le amate si gozano. E beh, bisogna che mettono i ricalchi, cosa ne so. Lo so, però non è amate si goza. E come ti sei andato una bambola gonfiabile. Scusa. Secondo me sì, e la bici si copia, cosa fai? Infatti. Ti ho mandato una che c'è mangiando di bischecchi, canta un piatto cruda, viscera. La ci ha pubblicata io prima di te, chissà, sì che l'ho vista. Una schifo, se fa male la carne cruda, mangiarla così, pucci. Cosa vuoi dire? Cosa hai niente fuori di capo? È fuori di testa. Io so che la carne cruda ti fa divenire. Avanno un momento uno, cammaranno ti fa divenire. Pucci, ogni aspetto, per carità. Chi sei pericoloso, ami Luca? Non compagni dalle nuda ma bocca. Cosa vuoi dire? Chissà di questi cose in trio. Sì, lui. O c'è il già babà, fa un fuser, ora salchissa, cazzo, e te ne raddrancia, e così per due polpette. È vero. E allora? Non farai di quella è cannibale, vero? 150.000 chilometri, c'è anche il gancio traino. E che macchina hai? Una 600. Sì, ma la 600 di adesso? È la di gatto. Non facciamo le 600 vecchie. E quanto? 1100 nuova e blu, 1100 euro. Ehi, ragazzi, burba, per più poco ne trovi. Non so. Senta, vai a Gio Maria. Gio Maria, ci sei? Ehi, sono qua, sono qua. Ah, non ci puoi parlare più con noi, Non lo so, Ecco, ero io. Marchisio, Tore. Stavate parlando voi, fra voi, voi vi siete dimenticati che c'era Bacchisi, Ettore, Gio Maria. Noi vi abbiamo lasciato parlare e siamo rimasti con Ricci. E cosa vuoi ti dica? Non è che io voglio parlare né con te, io voglio parlare con tutti, non c'ho niente con nessuno io. Sono andato da Bacchisi. Oh, siamo là tutti, è andato da Bacchisi a parlare di questa antennina. Noi che non l'avevamo chiamato, non l'hai sentito che stava andando da Bacchisi. Tu sei sparito come al solito. Io non sono sparito come non ho sparito né Torre né Bacchisio. Stavate parlando voi vi siete prolungati e vi abbiamo lasciato parlare. È chiaro che ognuno dopo se l'ha dato per i fatti suoi. Non è che non ci ho perso niente io, già lo sai. Invece, se tu invece eri stato bravo, avevi detto aspetta che c'è Bacchisio, Gio Maria e Torre in Correixi. Noi ti avevamo risposto, grazie, non dire queste cose. E tu perché non sei entrata? Hai detto, ma io non fa visto. Vero lui? Sì, se ci avete un discorso, così che ve l'abbiamo lasciato finire, capito? Non è che... perché noi non stavamo dicendo nessuna cosa importante, capito? Voi ci avete una questione in corso e vi abbiamo lasciato passare. Non è che siamo spariti, Noi siamo sempre qua. No, Giovanni, ti sbagli, perché Tore se n'è andato e Bacchisi lo stesso. Sono andato in garage, perciò non c'era più nessuno. Io a te non ti ho manco sentito. Io ho sentito a Tore e a Coso, stavamo parlando a Bacchisi. E poi Bacchisi ha rilanciato a Graziano. Però loro se ne sono andati. Non è come stai dicendo tu. Ma io non li ho sentiti chiudendo, capito? Perché io non ascolto lui. Ma non niente, non mi interessa, non è che voglio fare una questione di cosa adesso, no? Per carità. No, era per dirti che Tore è andato da Bacchisi a fare questa antenna, soprattutto se la volete te lo do io questo stiletto della 27, che ce l'ho qualcuno, tanto a me non mi serve. E Bacchisi ha detto no, ce l'ho io tanto. E sono andati in magazzino, in garage da Bacchisi. E allora siamo messi a parlare di Graziano perché non c'era nessuno. Poi se c'era anche tu, io non ti ho sentito poco fa. Infatti a Graziano gli ho detto, mi assento 20 minuti circa. Sto qua. Ma già non è successo niente, dai. È quello che dico anch'io. Non è che ci ho perso niente, per cui va bene lo stesso così, cosa? Oh, yeah. Per carità. Sabì, stavo guardando la TV. Se non avevate chiamato sarei stato guardando la TV, ecco, tutto qua, non è che abbia perso niente, capito? Sì, no, stavo spiegando a Graziano che mamma stamattina stava facendo una visita alle arterie, capito? Ah, io pensavo che stava facendo all'altra questione la visita, invece mi sono sbagliato. E chi? Mamma lì, no Graziano. Graziano, io pensavo che stava facendo un'altra visita, Graziano, alle arterie. Ah, ma io sto parlando di mia madre, non di Graziano. Beh, allora sono ricoglionito stasera, no? E ti sto parlando di mamma che ha accompagnato la mamma a fare una visita stamattina alle arterie. Va bene, avanti grazie, quasi vendi. Riprendi tu che sto mettendo a posto questa cosa qua, già dentro subito. E beh, Gio Mari, come stai? Meglio? Insomma, così. cazzo. Ha pizzicato da sabato. Da sabato. Chissà di arrivare la Fibiu. Boh. Entro Germina e te la blocca subito. Una al giorno. È mal di stomaco. A rotta di collo, ma stasera mi sembra più leggera, ma. Cazzo, ma è quasi incredibile, cazzo. Ma dolori, non riuscì mai a digerire niente, infatti, ciao che non mangio proprio nulla, a vedere un poco. Perché non riesco a digerire, cazzo. Poi ci ho mangiato una minestrina di brodo, eppure mi ha gonfiato ugualmente, sto a mal di stomaco. Poco fa mi sono preso la magnesia, la magnesia, vediamo un po' se mi sta calmando un po', però boh, pare fatta apposta. Poi mal di stomaco e diarrea, boh. Sì, ma sta qualche virus, Giovanni, qualche virus. Anche io. Ma io sono già 8 giorni più. Sembra che stava diminuendo, che stava andando bene. Lunedì ho dovuto andare all'ufficio delle entrate e si vede che mi ha tornato a beccare. Ecco, se non ho voglia nemmeno di parlare, nulla, ecco. Non ho voglia di parlare, cazzo. Dai, quando non ti senti bene, ecco la faccenda com'è, boh. Vabbè, non c'è problema, Giovanni. Se ne hai voglia, già siamo qua, non c'è problema. Non problem, siamo qua visto per fare un paio di chiacchiere, tanto tra un po' a cena. E poi la vecchiaia carrogna. Ogni tanto passa una cosa e viene l'altra, passa una cosa e viene sempre così, per carità. Proprio iniziato un anno brutto questa volta, ragazzi, perché un po' sembra che sia andato bene, un po' dopo ricade, torna, ma non passerà, vediamo un po' se vuole passare, se no vedrai un po' lì. Non so che gusti, Giomari. Non lo sai, hai una cosa, poi ti passa, poi te ne viene un'altra. Io, vedi, ieri lo stesso, meno tranquillo, ero qua, vado a casa, vado a prendere una bombola ieri notte, ho fatto uno strappo, tutta la notte mal di schiena ero. Quello è peggio. Ma io questi dolori ce li ho, ti ricordi da quando abbiamo portato in campagna, no? Si vede che io mi sono girato bruscamente con qualche ramo trascinando e ha cominciato a farmi male la notte e sta proprio sulla palla della spalla, no? E dal giorno ho cominciato a farmi male tutto, anche il braccio. Secondo come lo piego mi fa vedere le stelle, capito? Una parte all'altra, allora sono andato a farmi la lastra e mi hanno trovato il tendine lesionato, capito? A una parte, all'altra sono gli altri usi. E questo tendine fa male. Piglia la pastiglia, magari ci passa per un giorno, per il domani ricomincia di nuovo. E secondo come lo muovi, le stelle ti fa vedere, capito? E fa male, proprio tende, fa male, molto male. Aspetta Giovanni 2 secondi che sto ascoltando dei messaggi, aspetta. Vabbè, stavo rispondendo a Luca. Giovanni, cosa... Purtroppo, cos'è? Grazie a te, certo tu hai una certa età, non devi fare niente. Non devi fare una cosa per fare agli altri, come hai sempre fatto, dai. Puoi prendere una cosa leggera, così. Vai faccio. Anche da quando ho avuto l'incidente dell'albero, non potrei fare niente, nemmeno un cartone d'acqua posso prendersi, puoi immaginare. Come regola non devo fare niente, cioè, ma certe volte, ragazzi, se non la faccio io che la fa qui, l'acqua che me la porta su, non sempre il mio figlio che c'è a portarla su, capito? Certe volte scendo giù, mi porto l'acqua, mi porto la pelle. E certe volte anche quando prendiamo l'acqua, no, dal negozio a mettere sul carrello, capite? E io non dovrei fare niente, eppure lo faccio e magari sono le conseguenze perché ne sto abusando, ecco, tutto lì. Ma come si fa? Se non fai niente, come fai? E che te la porta la roba? Lo so. E mi sono caricato, portato qua, da, vabbè, a casa di Marina. La prima le tre casse d'acqua, adesso ne potevo prendere una alla volta, no? La mandruglia tutte e tre casse. E io mi faceva male la schiena. E più la bombola da 15, che è pesante, non è che sia leggera. Testardaggine è quella. Sì, io so, anche i giovani ci sono che hanno delle conseguenze anche gravi, per cui io per l'età che ho non dovrei fare niente, però certe cose le devo fare per forza, che forza maggiore, capito? Per esempio stamattina prima sono sceso giù in magazzino, mi sono portato un cartone d'acqua, ogni piano rotolo mi fermavo perché lo facevo, e la prendevo con la sinistra, non potevo nemmeno attaccare la ringhiera perché il destro non lo posso nemmeno muovere e nemmeno peso posso prendere, solo con la sinistra, però mi fa male ancora anche la sinistra, però di meno riesco a pigliare il peso, capito? E poi sono sceso e mi sono portato un secchio di pellet e così via, capito? Sembra così, ma queste sono risposte che io non dovrei fare, però devo fare forza maggiore perché non c'è nessuno, però è così, e all'età mia è peggio ancora, magari un giovane riesce a superarla più di me, capito? 82 ne so, che... Lo so Giovanni, ma se non puoi, non puoi, inutile. Poi peggiori e poi stai male, ma c'è meglio che lasci fare a... insomma, per esempio la campagna, ma le puoi fare cose leggere, se le puoi fare, se non le puoi fare come hai sempre fatto, ecco. Non è che poi ti devi ammalare tu, è un casino, come fai? E così, purtroppo l'età c'è, mi hai dato abbastanza nella vita e non puoi continuare, no. Puoi fare le piccolezze, con cazzatine così e boh. Tu che entro subito che mi è venuto un colpo da fame, mi ho fatto le struzze, adesso mi faccio gli sciacqui, riprendi. Tu? Non ti fai gli risciacqui? No, mi ho fatto gli struzzi, adesso va a sciacquarmi la bocca. Ah, ho capito. Perché tra... ma in campagna io cosa faccio? Io faccio poche niente, hai visto che se no quello che ce la fa, la maggior parte l'ha fatta Luca, così che per cui ce l'hai fatta, ce l'ha tagliare con l'albero, che dove c'è la cabina del posto, ma come fai? Non era possibile, per cui mi manca l'attrezzo che c'era, troppo pesante, e allora a tagliare dalle punte scendendo, quella era troppo pesante, non veniva bene, allora l'ho lasciato perdere quest'anno. Adesso vedo un po' se arriva questa primavera, questo attrezzo che voglio, che è più leggero, più corto, allora io la taglio, No, io no, la faccio tagliare a Luca. Così che il resto è tutto fatto, per cui all'anno prossimo adesso. Pensavo che sia... intendi il pruzzo, così pensavo che sia cagato innanzo. Non ho capito lui. Grazie a Anzuetto, hai pruzzo, pensavo che sia cagato innanzo. Io intanto li code una. Anche lui ti crede che sia ben messo, anche lui non è tanto ben messo, no? Lui bisogna stare molto attento a queste cose, però sai com'è? Lo so, vabbè, comunque sicuramente qualche virus, comunque Giomari, quello che hai detto, perché anche mamma così, capito? Qualche virus intestinale, vabbè. Già passa, dai, piano piano, adesso iniziano le belle giornate. Sono le belle giornate, scende in campagna, va bene. Ma non a lavorare però. Magari ti siedi a occhiasoli, fa mangiare già per un piacere, a routine. Chissà si può fare bici, perché qua non si può fare niente. Io fumo, rovina tutto. Mentre in campagna, almeno 300 di campagna, e cucini quello che ti pare piace, non rompi la scatola a nessuno, capito? Tiro i roghi, chi c'ha della sera, brontola. Che tranquillo il nostro. Così è, Bacchi. Che tranquillo il nostro, buonasera. Avanti, Luca, sono rientrato. Un attimo, sto parlando in verticale, riprendi, diciamo Bacchi, riprendi Giomari. Dove è andato? In campagna torna? No, è una cosa, dare un punto di stilo al Tore. Ah, e beh, hai trovato la vette, bene li va? Io gli andava bene, sono adesso da tagliare su misura, io gli ho più lungo, adesso ho detto tagliatelo. Ma per qua lo stilo o per la 27? Per qua. Ah. Ma quello stilo così si trovano, ci sono anche alla Bricomen, quei stili così da 1,50. E taglia a misura. E sono buoni quelli, perché io me ne ho fatto uno per la 27. Ed è 70 centimetri ed è la cannonata. Sì, ci vuole, come dice il sensato, pazienza e culo primo, e fai tutto. Solo che una volta è venuto uno, non mi ricordo chi era, stava cercando le bazzette, e cazzo, ne ha chiesto una, ma l'altra dove è andata a finire eventualmente si è messa in tasca anche l'altra basetta, adesso sono rimasto senza basetta io, capito? Oh, già c'ho la magnetica, però boh, mi manca l'altra magnetica di della 1000, capito? Magnetica di uno solo della 1000, ce l'ho quello lì. Va benissimo, solo stavo cercando una della Sigma, un vecchio tipo della Sigma, ce l'avevo sempre in soffitta e non l'ho trovata, adesso l'ha data a qualcuno. La Sigma, quella bianca? Quella bianca, manca tutto, manca basetta e diavoli, tutto. Ma io la Sigma ce l'ho bianca e dovrebbe essere in campagna, ci dovrebbe essere anche il musicoppo, però senza la basetta, senza l'attacco dove c'è saldato il filo, quello manca. Il resto c'ho tutto, c'ho anche le due o tre grondini, io c'ho, sì. Quello che si mette sulla grondina lì, sulla cappotta della macchina, capito? Anche quelli c'ho. Prima si usavano, adesso le grondine non è più la macchina, dunque non si usano, adesso calamita. Capito? No, l'unica cosa che va bene è una base calamitata, la mette dove vuoi, la staffi quando vuoi e tutto. Ah, io basette ne ho due o tre, ne ho. Se a qualcuno gli serve, una gliela da lì, e l'altro io non è che metto più l'antenna in macchina, non lo saranno, non ne metto più in macchina, capito? Per cui se a qualcuno gli serve, io gliela do ben volentieri la basetta, capito? Però ripeto, la basetta di plastica, dove va attaccata l'antenna, dove si è attaccato il filo, quello non ce l'ho, ce n'ho una solo. Sì, quello, ma quello si può costruire, Giovanni, è facile costruirlo, perché in cima al filo c'è soltanto un anello di attorno, di rame, e roba del genere, l'altro filo è a massa, ma quello già è fattibile. Vabbè, io magari non mi piglio quella fatica, qualcosa la costruisco, tanto io ripeto, non le metto io in macchina più, da quando ho preso questa macchina non ho attaccato più un baracchino in macchina, capito? E a te antenne non le metto, ho messo solo quelle PMR una volta, che con la magnetica e basta, boh. Ma se no, raramente pure ne metto di quella lì, perché non mi va, ecco, non mi va. La magnetica è una rottura, no? Conosce bene, sì, però non è come quando c'è la grondina, capito? Luca, scusa, Luca sta parlando in verticale, vediamo se ha finito. Ah, capito, Bacchi, io in baracchi di macchina non ne metto più. Cosa saranno? Vai in campagna, bene, lo baracchino, ma non la sento mai. È raramente la sento, ma che si fa in campagna e a fare che cosa, non è che fa a chiacchierare, no? Qualche cosa la devo fare, se mi attacca a chi si cose non fai niente, ma che cosa ti pare? Infatti, se porti il baracchino non fai nulla, il baracchino lo lascerò in casa. In campagna non vengo, quindi infatti ho proprio l'antenna, ho proprio tutto, c'è ancora il capo, devo ritirare il capo, perché non li pongo più, tanto accendevo lì, quando accendevo un attimino, poi lo dovevo spegnere, adesso stai lì, niente. No, non ho mai fatti. La qualche volta l'accendono, qualche volta l'accendono. L'accendo e me ne scendo giù a fare qualche cosa, magari sta tutta la mattina acceso, finché lo salgo su a spegnere, a mangiare, capito? Ma se no non lo acchiaccherò, magari lo faccio per riscaldarlo, capito? Sai, è sempre dentro questa cabina, già è coperto, però conta che c'è già da un mese da otto che non lo tocco, ti puoi immaginare, però sembra che è ben coperto, per cui no, non ha fatto niente l'umidità fino adesso, dai. Riparato dall'umido, riparato. Vediamo Graziano se è ritornato, Graziano. Ehi, mi stavo facendo gli spruzzi perché mi è venuto un colpo d'asma, non lo dice a ripida. Ah, ecco, allora è sotto pompa. E adesso meglio stai. Ehi, mi ha fatto due spruzzi, discus e un'altra bomboletta. Ecco, allora già tutto bene. Ehi, puzzinoso, quando mi viene mi manca l'aleno brutto, non respiri, mi si blocca la bitorra. Ah, pure, apri la finestra e respirare a pura, grazia. Così, la vecchiaia, grazia, la vecchiaia è... No, anche se esce a pura e mi bongo a bocca aperta, no entra aria, non è un frizzo. Si forma come un tappo, mi chiude la gola e non ci passa aria, né dal naso né dalla bocca. Allora mi devo fare questi frizzi. Non ci sono, Eia, riprendi, Luca. Tu hai tanto dei frizzi, mi sembra che ti avevi patennato, grazie, ma ci no. Cose brutte sono, cose brutte. Io poco fa mi sono dimenticato a dire alla Gio Maria che avevo questo mal di testa forte. Cosa ho fatto? Ho preso e mi sono riposato, no? L'altra notte. Verso le 8:30 mi sono svegliato, ho questo mal di testa forte mio, adesso un po' devo prendere una bustina e mi sarebbe passato. Mi sono andato da qua col capogiro, hai ganto per la pazzia, ma mai che stava guidando lì, perché mi dovevo accompagnare a casa. Ma brutto, il domani è lo stesso, sembrava ubriaco. A me quando mi viene la panna così, devo farmi subito sempre saburo quegli spruzzi, perché neanche con l'ossigeno non funziona. Allora mi devo fare quegli spruzzi che sono a base di cortisone, capito? Allora mi staffa la cazzuna. E quello è brutto, quello è brutto, grazie. Quello è brutto, bisogna andarci piano anche parlando, perché si affatica, si affatica, per cui dopo peggio ancora, lo sai. E lo so, mica già lo so già, se mi l'ha detto un mese passato che io devo fare i movimenti piano, senza fare discasso, senza sforzi, piano piano. Dici, cosa posso, la Puglia va a fuori. È brutto, per carità, insomma, lascia Marconi, vai Bacchi, io sono fatto la 50 l'altra mattina, quando è? non so se te l'ha detto, e mi stava raccontando di quel fianco che ti fa male. Sì, già me l'ha detto che te l'ho trovato, diceva la tua signora. Male, secondo te? Male, per carità, ogni tanto ce n'è una, cosa vuoi fare? Beh, mi sto già un gabbo a me che ci... che cosa ti va di un lesionato, cazzo, lui a pari di braccio, non posso ma cucciare, devo cucciare panzinaccio, anche se mi cucca un fianco, mi fa di maro gusto, e l'ommaro, mi cucca la tua fianco, va di là, la sommaro, per cui ti stracca e poi e zocchette che ti entrano e non riesci a mancare a riposare, puoi immaginare, e ogni tanto venne una, capito? Però, cosa vuoi fare? Voglio appassire, ti butti i bacilli, magari ti sarà una cosa e te ne fate dire un'altra, boh! Adesso con me si va a fare i bacilli, punture e nuda. Avane so con cerottini, avane ci fanno i cerottini. E che cosa ha alleviato, ma sono commessi. Non può che scappare, perché posato, né cuccato, né in piedi, né malato, ma se mi soffiende anche. Avane faccio anche un fiato, i piedi, a pallone mi sto facendo, un dolore non finì più. Anche quello ci voleva, per carità. Insomma, una cosa là, sì, ma c'è molta gente proprio a terra veramente. E tutti i freddi abbiamo preso in gioventù, i marasiuti. Allà a Piatrone, a Mali sono scelti tanti a pietri d'ore, per carità, però... per essere solo che stanno qui, già bisogna tirare avanti, alla bella miglio e cos'è, non ci puoi fare niente. Basile, e ti dico cos'è, il tarrone già lascia tutto il ciocomo, e così via. Perché già vai Purtroppo così bisogna, quando c'è qualcosa, deve fare il soccorso, poi che uno si ammala, tipo vedi Graziano, purtroppo solo deve portare a vita quello. Come chi ha il diabete solo per portare a vita, però dai, si campa lo stesso, se uno si regola e mangia sano, tranquillo e sereno, senza abusarne, già campano mattesi, poi uno se ne vuole fregare, allora la musica cambia. Mia madre, io sono abusato, no? Se dovete, appena che mi nasce non riesco a camminare, che mi fate male, è proprio l'aggiunzione di ricorsi, no? Tutto il vaccino, loro si chiedono di fare movimenti, chiedi. Magari quando stai a fare un po' di movimento, poi piano piano abbassano un po' carese, però fate male burghissi, ti puoi immaginare? Insomma, abbassa il lato, no? Passa una cosa per il lato, è così, però... a una certa età non è che puoi migliorare, peggiorare si può, ma migliorare è impossibile, allora va chi? Peggiorare si può, nulla, e infatti, pastiglie contro pastiglie, io ne sto combattendo una, a forte pastiglie, una che mi devo portare a vita, che ti ha dato un campo, dopo vedere il campo e sei a morire da burro, capito? E dunque sono a pastiglie di gioco. Solo per quel male lì ne prendo 10 pastiglie, infatti fra poco devo usare l'acqua, prendiamo la pastiglia. Avanti, Luca. Vabbè, piede che fai vivi, così. Vabbè, tipo vedi mamma lo stesso, stava andando bene, era di lusso. Poi fa di testa sua e glielo dico di non mangiare. Gli ho detto non ne mangio uno di queste cavolate, lì piace la mortadella. Ogni tanto si prende qualche salsiccia, dice la metto nella polenta, ma se la mangia lì. E poi l'altro giorno si è comprato la pancetta. Non ne mangio di litigosi. La mangiano ogni morto di papà veramente. Lei che non ne può mangiare, ne approfitta. E poi è di nuovo ingrassato, questa glicemia sta andando e peggiorando. Non lo so, io il mio l'ho fatto, poi giù per lì, non mi vuole ascoltare. Quello è, sono arrivato a una certa età, vogliono comandare loro, ma non rispettano le leggi. E vabbè, bisogna prendere il tempo come viene, Luca, cosa vuoi fare? Avanti, grazie. Ehi, mi era mai denni, Luca, chissà di padogni mosso di bistecca gruda, che schifo, ma come cavolo fa? Boh. Boh, non lo so, ma infatti quando l'ho vista io, è stato strano che sta mangiando questa carne cruda. Boh, gente fuori di testa quella. Vediamo come fa. Avanti Giovanni. Ehi, gira, meno quattro, mi sembra che me ne vado, mi spengo tutto, me ne ando. Boh, se riesco, non so, ma che ne viene fuori da mangiare, però a quell'ora io pure devo fare quello che fa Graziano, per cui devo approfittare, dai. Dai, ci sentiamo domani, se Dio vuole, per cui grazie la chiacchierata e ne approfitto. Ciao Luci, sentiamo, buona cena anche a Graziano, c'è tutto in casa. E io a Bacchisi, ci sentiamo, dai. Alle prossime, saluta a Tattore se rientra. Io chiudo, se la giù manco cane fa vedere cosa vuol dire a Bacchisi. Ciao, ci sentiamo, vai. Ciao Bacchi. Ciao Gio Maria, buona serata, saluta la signora, a domani il tuo concile. Vai Luca. Ehi, ciao Gio Maria, salutone, da. Buona sera e buon tutta, alle prossime. Avanti, grazie. Ciao Gio Maria, buona cena, buon tutto. Ehi, subito, serve il vostro l'insulina. Sono le 8:15. Va bene, a domani se coincide. Ciao, buona cena, buon tutto, saluti da parte di Paoletta, ciao ciao. Cosa c'è stavolta a mangiare, grazie? Qua, siccome ne ho fatto una pentola di spezzatino, una mia figliola non è venuta a mangiare i nutti, e dunque ne è rimasto, a mezzodì non ha ne mangiato, me l'ho mangiato solo io, mi mangio un altro po' di spezzatino e buh. La vedi in avanti, domani lo do garugani, mica me lo busso un capo a trendino, vabbè che l'ho fatto ieri, ma non è che devo mangiare solo spezzatino. Non è fa tanto giusto, un po' per pranzo, un po' per cena, boh, ma tanto giusto, non ne fa in più. Poi io che se avanza, infatti qualcosina c'è avanzata, qualche pezzettino di carne l'abbiamo data al cane. Però non ne fa tanto, tanto lo mangiamo io lì e basta. Ma io lo faccio in più anche perché molte volte viene Chica con qualche amica sua e si rimane a pranzo e mangiare non più con lui. Ad esempio oggi c'era, poi ieri notte è venuta questa amica di mia figlia che ha dormito qua e oggi se n'è andata. E dunque non ha mangiato ne manco vista a chi ci deve abbigliare un burma. E vedi, io la posso più da poi non vi venire, o non vi veni. Vabbè già non ho problemi, già ne do cammini butti che sono stai noi. Chi c'è? È una bala meccanica. Sì, vabbè, ma fanno una bala da manna manna manna, non ce ne fai nulla, cioè, troppo. Oh no, Bacchi. Quando si sbaglia si cucina per tanti, bisogna avere la misura. Bene Meda, dai, io mi passo in correti perché sono arrivato all'ora del merendero. Oh Luca, buona serata, sono saluto in casa, a domani se tu coincide, se poi viene mezz'ora e mezza già mi trovo in garage. Ciao Graziano, saluta Paoletta, buona cena per tutte e due, a domani, bye bye. Ciao Bacchisi, buona cena, buon tutto, a domani se coincide, vai Luca. Sì, ciao Bacchi, dai, salutoni, buona cena e buon tutto, a domani, dai, se ce la faccio lo faccio un salto. Tanto devo portare quelle antenne a Marino, le lascio da in magazzino da te, dai. Va bene, ciao, avanti, grazie. Ma domani cos'è San Valentino? Allora, grazie a domani prepara, dimmi, con Rosi, fai da bravo, mi, Sì, yeah, per carità. Sono cognati per i regali. E cosa mi devo preparare? Ma domani, domani ti tocca. No, no, un regalo, non fargli un regalo. Ti tocca domani, no? Ah, ma che ci chiama il bello caldo il buio, non è come ti dicietta. Vero è, Paolè? Camera da letto. Sta mettendo il programma di Bonuris. Anche noi lo guardiamo sempre, certo, lo guardiamo. Marina, lo guardi o parla alla radio? Oggi no, oggi no, in paesi. Chi? Tua moglie? C'è una signora che l'ha già male, una o due volte al mese. Ho fatto tutta una tirata, tutta la lì, oppure sino alla una. E ce la pagava. Ah, proprio oggi, no, oggi no. Oggi, oggi, quando guidavo l'accompagnavo io in macchina, se, se era a casa, capito? Se no già va in pullman, o l'accompagna mia figlia. E chi sta si attenta sempre a chi sborsa pagava. Perché io lì su non è proprio uscito, dopo dove fa capolinea del tram, fa la fiamma di una fila, andavo da questi signori, ma le tue moglie a metterli a posto i computer. E li avevo messo a posto. Poi questo qui ci siamo, abbiamo bloccato, gli ho detto guardi, allora il problema è l'hard disk. Allora abbiamo ordinato l'hard disk, gli abbiamo reinstallato il sistema, tutto quanto, insomma gli ho tutto sistemato per bene, poi non mi hanno più chiamato. Io già mi posso fare, io il PC l'avevo sistemato, poi se la rischi se ne è danneggiato, non è colpa mia. E si pagavano i beh, la verità, ma è dei mogliere, lui era professore, mi pare, o lì era professoressa, lui non so cosa faceva, ogni casa, ma bella, bella veramente. Aspetta un attimo che hanno suonato al cancetto. Ehi. Grazie, dai, io sto andando a mangiare. Ci sentiamo domani, ciao, buonanotte e buona cena. Ciao, ciao, sotto anche a Paoletta, ciao. Ciao Lu, no, era quella di sotto mi voleva era al cancetto. Va bene, a domani Lu, ciao. Buona cena, saluta a Camarina da parte di Paoletta, ciao. Ti ha tutto ricambiato, grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.